Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il primo di settembre, si apre dunque un nuovo mese di programmazione su Radio 24, di questo programma in onda ormai da 2 anni, che indaga sulla cronaca, sulla politica, sul costume e sullo spettacolo italiano. Sono 2 edizioni quotidiane, una redazione che realizza ogni giorno reportage ed inchieste. Oggi parliamo di musica con uno dei grandi jazzisti italiani di tutti i tempi, Gaetano Liguori. Buongiorno a tutti. Daniele Biacchessi. Gaetano Liguori è un jazzista italiano, inizia la sua carriera molti anni fa ed è ancora in attività, sempre più che mai, non solo nel mondo del jazz. Allora Liguori, vogliamo ripercorrere un po' i tuoi passi. Tu nasci come jazzista in che anni? Ma io ho cominciato a fine anni 60, prima anni 70, e la mia nascita musicale è col free jazz, il genere che arrivava dai nero americani della fine degli anni 60, da Ornette Coleman, Cecil Taylor, Albert Tyler, eccetera. Io che studente al conservatorio, che venivo poi dal rock come tutti i ragazzi degli anni 60, dai Beatles, dai Rolling Stone, mi sono trovato a confrontarmi con questa musica grazie anche a un papà batterista che portava i primi dischi di free jazz da oltreoceano, e mi sono lanciato in questa musica, per così dire, spericolata. La musica rifletteva anche degli anni di grande impegno politico e civile, ed è quello che poi è stato il tuo passato. Diciamo passato e presente, ecco, chiariamo subito, ma in quei momenti, diciamo, per me è stato fondamentale, perché io che ero un giovane studente del conservatorio e che partecipavo alle infuocate manifestazioni dei primi anni 70, mi sono trovato a poter fare la colonna sonora di quei movimenti. Diciamo che il jazz per la prima volta usciva dal connubio club sofisticato o concerto del Lirico di Milano con la borghesia bene, ma diventava la musica, come dicevamo noi, del proletariato, delle masse, delle manifestazioni, tant'è che poi dopo aver sperimentato per 2 o 3 anni dal vivo, poi in una cantina qui a Milano, mi sono trovato a fare Cide Libero Cide Rosso, che è stato il mio primo disco jazz e anche il mio primo manifesto programmatico in un certo senso. Il Cile, l'11 settembre 1973, il colpo di Stato di Pinochet. Da quel momento poi altri luoghi in qualche modo ti hanno affascinato, da una parte il lavoro che hai fatto sull'Africa e anche sulla Palestina. Sì, direi che in quegli anni i nostri spunti di lotta, sia ideologica che poi per me diventavano spunti musicali, erano il Cile, poi la Palestina, poi l'Eritrea, poi il Sud America, poi il Nicaragua, insomma spunti ce n'erano. Diciamo che per me quello che era il compito che io sentivo mio era di tradurre in musica questa indignazione, questo modo di pensare, e per cui nel 76 poi ho fatto uno dei primi dischi, diciamo, dove allora in modo rivoluzionario io mischiavo la poesia di Giulio Stocchi, la voce di Demetrio Stratos e il mio pianoforte jazz col trio e la musica popolare di Concetta Busacca, che è la cantata rossa per Tale Zatar, che è stato forse uno dei primi esempi di quello che allora non si chiamava ancora teatro civile o reading, eccetera, era proprio un'operazione nuova che aveva spiazzato anche un po' i critici dell'epoca, perché io, non dimentichiamoci che lottavo sui 2 fronti, uno era quello del circuito jazz, dove con una mia intervista del 74 feci un certo scalpore, perché io dicevo che volevo dare la mia musica ai circoli proletari, eccetera, alle fabbriche occupate, cose che adesso sono abbastanza di senso comune, allora risultavano un po' ostiche. Che cos'è l'impegno politico e civile oggi? Ma l'impegno politico e civile oggi è lottare contro la mafia, fare spettacoli teatrali sul consumo dell'acqua, andare a Cinisi a fare uno spettacolo per Peppino Impastato o sulle donne albanesi maltrattate. Diciamo che delle forme di lotta ci sono sempre, è cambiato un po' il circuito e anche i fruitori. Io per esempio, che non sono mai stato legato solo al circuito jazz, adesso mi muovo bene nell'ambito del teatro civile, dove la parola diciamo è un prolungamento della mia musica, o viceversa, la mia musica è un prolungamento della parola, per cui il modo di lottare, di sentirsi vivi in una società che purtroppo è, rispetto a quella degli anni 70, è un po' più assopita, direi che c'è sempre. In un'intervista hai detto che hai avuto più paura all'Otto Mercato di Milano, suonare all'Otto Mercato di Milano, che non so, in luoghi anche un pochino più complicati. Ecco, giusto per... ecco, perché devo ricordare che tu hai suonato anche in tanti luoghi, dall'Iraq a Beirut, in Nicaragua. Nicaragua, sì. Ma io direi che appunto in quelle situazioni c'erano i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, per cui mai e poi mai in Nicaragua mi avrebbero mandato allo sbaraglio in una zona dove la contra era attiva, per cui c'era quel pizzico di rischio, ma era sempre programmato bene. Certo, una città come Milano, trovarsi all'Orto Mercato di Milano a 100 passi da dove io non sono nato ma ho vissuto la mia infanzia, che era il Corvetto, cioè dall'Orto Mercato al Corvetto sono neanche un chilometro, e noi con una carovana antimafia organizzata dall'ARCI di Milano ci siamo trovati davanti all'Orto Mercato in una situazione, direi, scomoda, nel senso che non c'era nessuno, erano tutti chiusi dentro e noi eravamo fuori col microfoni con Nando Dalla Chiesa e altri impegnati in questo campo, eravamo fra di noi e c'era un'atmosfera veramente pesante e palpabile. Un'ultima domanda, dal punto di vista musicale, com'è cambiato il circuito del jazz nel nostro paese? Il discorso che ha preso sopravvento, mentre negli anni 70 diciamo era il jazz impegnato, quello che era un po' la punta avanzata del movimento jazz italiano, parliamo, e poi negli anni ha ripreso tutto col vecchio sistema, è cambiato proprio il sistema, ma non è cambiata la mia musica, ecco, il mondo è cambiato ma io no, come direbbe Billy Kid a Pat Garrett nel film di Peckinpah. Era Italia in Controluce, la prima edizione, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24.